9 in punto, la versione di Oscar. Oh, how elaborate flies the end of everything that stands the end. No safety or surprise the end. Buon giovedì 5 aprile, da un sempre più perplesso e meno convinto del proprio ruolo Oscar Giannino, la sensazione di essere completamente inutile e fuori corrente per quello che mi riguarda cresce nei giorni. Io sinceramente ve la dichiaro, vedremo poi che cosa serve. Bisogna essere motivati e convinti per aderire alle tesi che vanno per la maggiore in questo paese. Io non sono allineato, quindi non sono motivato e non sono convinto. Oggi vi propongo altri paradossi nel cammino, non so quanto ancora lungo, che percorrò da questi microfoni, perché effettivamente mi interrogo ogni giorno su a che cosa serve a sentirsi progressivamente sempre meno in linea con quello che succede di questo paese. L'informazione ha un compito fondamentale, a quello di motivare, a quello di informare, a quello di approfondire, badando ai numeri e ai fatti. In questi giorni vi ho proposto una serie di esempi sempre più paradossali ai miei occhi, ai miei modestissimi, minoritarissimi occhi, di come non mi ci trova quando un paper di una Banca d'Italia finisce su tutti i giornali dicendo il contrario, quando tutti si impancano maestri dei soldi altrui e poi dei propri e fanno il contrario. Allora, oggi ci occupiamo di altri paradossi che ancora ruotano intorno alla questione di fondo del nostro paese, perché la bassa produttività del nostro paese, per lo stupido che sono, si identifica col settore pubblico, che entra in media al 52% del PIL, e quindi bisogna insistere molto su questo, perché poi il paese cresce sempre di meno perché il pubblico che prende non dà. Bisogna insistere su questo perché bisogna pretendere che lo Stato applichi la stessa trasparenza che chiede da noi contribuenti, applichi la stessa puntualità che chiede a noi contribuenti. E invece il paradosso è che questo sembra non essere l'argomento all'ordine del giorno, e di cui che nasce poi la mia impressione di essere inutile e la mia convinzione progressiva che qualcun altro serva più di me. Allora, oggi intorno a che cosa gira la puntata? Intorno a tre paradossi. All'indomani del giorno in cui si uccide un altro imprenditore a Roma, l'ennesimo, siamo oramai a più di un suicidio al giorno, tra pensionati come l'Annunzia che si butta giù a Gela perché gli levano 200 euro di pensione, tra piccoli imprenditori che si impiccano o che si sparano come ieri Carlo Frassacco a Roma, 59 anni, un colpo di fucile al cuore perché sta fallendo, lo dice ai figli, chiede scusa e si spara. L'ennesimo. Ecco, di fronte a questo i paradossi sono questi. Il presidente della commissione dell'Istat, primo paradosso, Giovannini, che sapete io ho sempre stimato, invitato qua, lo considero una delle persone su cui ricostruire un paese che dovrebbe, sui numeri condivisi almeno, imparare ad avere un linguaggio su cui poi magari dividersi sulle opinioni. Invece no, nel nostro paese non c'è più uno strumento quantitativo per descrivere la realtà, così ciascuno poi è libero di chiacchierare in libertà. Ieri il presidente dell'Istat, Giovannini, ci ha fatto sapere di doversi dimettere, dover rinunciare all'incarico della commissione che era stata istituita nel giugno del 2011 dal precedente governo, che ricordate aveva due compiti fondamentali: quello di dire ufficialmente, con numeri appunto condivisi, come tagliare prima gli stipendi dei parlamentari italiani e dei politici italiani rispetto a quello che guadagnavano in media quelli europei. Vi ricordate che cosa è successo all'inizio dell'anno, quando il Parlamento ha ribaltato i criteri che proponeva la commissione Giovannini, e alla fine siamo dovuti arrivare alla conclusione che il Parlamento sosteneva che in realtà le voci andavano computate diversamente, dal che si deduceva, secondo i parlamentari italiani che guadagnavano meno dei loro colleghi, perché bisognava levare dalla somma le somme che si danno per i loro collaboratori, anche se quelle nel Parlamento italiano si danno ai parlamentari, mentre negli altri parlamenti si danno con un rapporto diretto tra Camera e Senato, l'equivalente di Camera alta e Camera bassa, direttamente ai loro collaboratori. Primo stop. Ieri un altro stop. La Commissione non riuscirà nemmeno a dirci qual è il criterio comparato per capire bene come guadagnano i vertici la nostra pubblica amministrazione e quella europea, perché non esistono la possibilità di comparare davvero questi dati. E quindi, per evitare che per l'ennesima volta poi i vertici della pubblica amministrazione insorgano puntando i fucili contro Giovannini, accusandolo di essere un giacobino quando sono una persona seria, ecco che lui ci avvisa: non si può fare fare questa elementare operazione di trasparenza. Quindi, ergo, non si taglierà un piffero neanche su questo capitolo. Bene, felicità, si taglia solo le nostre tasche con le tasse aggiuntive che servono però a reggere questi signori, e non solo loro, perché il perimetro pubblico non è solo la casta. Primo paradosso. Secondo paradosso, finanziamento pubblico dei partiti. Finanziamento pubblico dei partiti che, come sapete, è cresciuto negli anni ad onta del referendum italiano che l'aveva abrogato, è diventato il rimborso elettorale, e dopo il caso Lusina Margherita eccoci alla vicenda di impatto, secondo me, durissimo, che attraverso Belsito, il tesoriere della Lega, colpisce la leadership, la sfera più alta della Lega, Umberto Bossi, la sua famiglia, quello che si chiama il cerchio magico, cioè i suoi collaboratori più stretti di fiducia, da che è stato male. I giornali sono pieni delle intercettazioni e dei colloqui registrati dei collaboratori più stretti del tesoriere. L'accusa è quella di utilizzare i fondi dati al partito per spese personali dei familiari diretti di Bossi. Non so Bossi quanto consapevole. Comunque, il punto di fondo è che anche la Lega spende 3,5 milioni e incassa 41 milioni. Quindi il buco nero del finanziamento ai partiti, l'utilizzo delle distrazioni personali, come nel tesoriere della Margherita, in questo caso da parte di questa persona, Belsito, tesoriere della Lega, ex autista di Biondi, il ministro della giustizia liberale dei primi governi Berlusconi. Terzo episodio, vedremo una grande impresa, in questo caso di Vicenza, che rischia di chiudere. Perché rischia di chiudere? Perché lo Stato non la paga. Ieri abbiamo letto che c'è un primo impegno per 1 miliardo rispetto ai più di 70 che lo Stato deve alle imprese nel debito commerciale. Vediamo che tempi e che modi ci si mette. Concludo dicendo, i giornali di oggi sono giustamente dedicati nelle prime pagine all'articolo 18, brindano ed elogiano il grande spirito di questa riforma che il Presidente del Consiglio indica ai mercati e al mondo come l'ennesima grande svolta figlia dei mesi che viviamo. Io continuerò a dirlo, al di là della riforma delle pensioni che andava fatta in brevissimo tempo per la sostenibilità dei conti pubblici e che ha questo grave lacuna adesso degli 350.000 esodati che lo Stato non era neanche in grado di quantificare, da risolvere. Mi pare che anche questa riforma dell'articolo 18, come quella sulle liberalizzazioni, sia una delusione. Ve lo dico con rammarico, io non amo criticare per partito preso. Il ritorno alla reintegra sul licenziamento economico è in buona sostanza il passo indietro rispetto alla grande novità che c'era per maggior flessibilità all'uscita, e venendo meno questo pezzo la riforma avrebbe dovuto riequilibrare molto, attenuando fortissimamente invece l'appesantimento durissimo che c'è nella flessibilità all'ingresso, e che il ministro Fornero, secondo me, ha avuto il torto, ha commesso l'errore di mettere sul tavolo, prescindendo da un vincolo tra le due flessibilità. Se ne volete meno in entrata, me ne dovete dare più in uscita. Le attenuazioni venute al fortissimo giro di vite nell'ingresso rispetto all'irrigidimento che è la scelta fondamentale della riforma nella sua versione originale è molto molto molto basso, perché in tutto consiste semplicemente in un premio di soli 6 mesi di contributi per chi assumerà quelli a tempo indeterminato, quando invece il difetto fondamentale di questa riforma è che non si abbassano in maniera standard i contributi per tutti i lavoratori a tempo indeterminato, perché questo governo, la spending review per tagliare spesa pubblica e per dare più agio, per levare peso fiscale insopportabile a piccola impresa e lavoro, non la fatta e non la fa, e dopodiché è andato via quello che si chiamava il causolone nel primo contratto a tempo determinato. Per il resto tutti gli altri aggravi che sono pesantissimi nelle diverse forme contrattuali a tempo in entrata restano, l'obbligo di comunicare ogni chiamata per il lavoro intermittente, i non più di 3 associati per gli associati in partecipazione, eccetera eccetera eccetera. L'effetto di questa roba mi sembra che la maggior propensione all'occupazione non ci sarà. Voglio sbagliarmi, spero di sbagliarmi, non sopporto questa specie di tamburo permanente per dire che queste sono grandi riforme. Non lo sono, perdonatemi. Non c'è il finanziamento per lo strumento universale di sostegno al reddito per tutti coloro che si troveranno, anche se di qui al 2017, quindi il 2017 campa cavallo, a perdere il posto di lavoro, perché gli 1,2 miliardi che il governo ci mette a finanziamento, oltre naturalmente all'aumento dei contributi, che quello naturalmente certo che c'è, però quelli non servono, non bastano neanche minimamente a finanziare a regime un strumento universale di sostegno al reddito. Cominciamo allora con, dopo questa troppo lunga introduzione, ma per capirvi perché tra poco poi ci sarà un altro, cominciamo con il sindaco di Verona, Flavio Tosi, che ha accettato, io molto lo ringrazio, di essere con noi a parlare del tema che riguarda le indagini che coinvolgono il tesoriere della Lega e la cerchia ristretta dei familiari di Umberto Bossi. Del resto Flavio Tosi ha parlato, è stato tra i dirigenti della Lega che hanno parlato da subito, fin da ieri c'era una sua intervista su Repubblica col titolo chiaro: ci salviamo se torniamo alle origini, ora si apre la stagione del ricambio. Questo era il titolo dell'intervista al sindaco di Verona, che diceva: Umberto è uno che non ha mai preso i soldi dal partito, basta considerare il suo stile di vita, però i finanziamenti pubblici devono servire a far funzionare meglio il partito. Qua ci troviamo di fronte a strutture segrete. Ricordo a tutti, prima di dargli la parola e chiederci di spiegare cosa succede, come si orienterà lui e coloro che sono vicino a lui, vi ricordo che oggi è convocato un Consiglio federale della Lega, che il Corriere della Sera lo anticipa con un titolo: forse Bossi dimissionario. I giornali sono pieni di come Umberto Bossi abbia appreso cose ieri dagli stessi dirigenti più vicini, che ignorava, e si è precipitato poi a casa chiedendone ragione, quindi circostanze che farebbero davvero credere che non ne sapeva nulla di quello che facevano i suoi figli Rosimauro e sua moglie. C'è sui giornali di oggi anche la notizia di una grande riunione autoconvocata di quadri dirigenti leghisti per il 10 aprile in Lombardia, e la notizia era anche che il sindaco di Verona avrebbe partecipato. Ecco, sindaco Tosi, cominciamo nel dire: a 48 ore dalle prime notizie, oggi la pensa come ieri? È ancora più risoluto di ieri, oppure c'è qualche dubbio che le è venuto? Buongiorno innanzitutto. No, intanto buongiorno a voi. No, non è che sono più risoluto, ho dei dubbi, la penso esattamente come ieri, assolutamente. E cosa si aspetta dal Consiglio federale di oggi? Beh, è chiaro che tutti, gli elettori, i militanti leghisti in primis, ma credo anche i cittadini in genere, si aspettano che la Lega dia un segnale di svolta. Cioè, il fatto che Belsito si sia dimesso era ovvio e scontato. Quando l'amministratore ha addosso accuse di quel genere, minimo lo sposti, che al di là che sia colpevole o innocente, ma con accuse di quel tipo lì non puoi far altro che spostarlo, e quindi quello, diciamo, era una cosa dovuta. Resta il fatto che serve un segnale di cambiamento, perché l'impressione che hanno i militanti e gli elettori è di un partito che è, a differenza degli altri, perché la Lega era sempre stata diversa dagli altri, sia perché comunque certe situazioni non l'avevano mai nemmeno sperata, ma poi perché comunque siamo sempre stati legati al territorio, molto vicini alla nostra gente. Adesso secondo me si ha l'impressione che siamo un po' più distanti, ecco, non è che siamo un partito romano, però che siamo un po' più distanti dalla nostra gente, quello sì. Abbiamo pagato caramente l'ultimo anno di governo Berlusconi, perché è un'alleanza che alla fine ha rischiato di soffocarci, e ci avrebbe soffocato se andavamo avanti così, perché poi dopo 3 anni e mezzo l'abbiamo portato a casa. Oggi la nostra gente ci dice: ma cosa avete portato a casa? Tu gli spieghi che per esempio con Maroni sei riuscito sulla sicurezza a fare tanti provvedimenti importanti, e ci sono, ma per esempio sul federalismo fiscale, che era la battaglia di tutte le battaglie della Lega, che è la Lega, dopo 3 anni e mezzo siamo rimasti con un pugno di mosche, e quindi bisogna tornare alla concretezza. Niente slogan, niente demagogia, anche perché essendo stato al governo per 3 anni e mezzo non è che puoi dalla sera alla mattina cambiare atteggiamento e metterti a fare il barricadero avendo governato il paese, guidato il paese fino a poco prima. Quindi serve molta concretezza, vicinanza al territorio, dire le cose come stanno e portare avanti delle idee che servano concretamente alla gente. Bisogna tornare sul pezzo e da un punto di vista politico interno è già previsto il congresso della Lombardia, quello del Veneto deve essere convocato anche quello entro giugno, però serve un momento di confronto con i militanti, perché è chiaro che i militanti adesso devi parlare, cioè altrimenti percepiscono la segreteria federale come distante, e poi perché si devono, passatemi questo termine che non rende, sfogare, cioè devono potersi confrontare con i loro dirigenti e dirgli quello che pensano, e i dirigenti devono cercare di dettare una linea per uscire da questa situazione che, per come vivo io la Lega da più di 20 anni, è una brutta situazione. Poiché la responsabilità di Belsito ovviamente risponde direttamente alla leadership apicale del movimento, in questo caso e pensando anche a ciò che avveniva nei mesi precedenti all'interno della Lega, pensando alla vicenda che ha riguardato anche per esempio le scelte di come organizzare l'offerta elettorale proprio sua, del sindaco di Verona, nei confronti del prossimo turno amministrativo, lei è stato di un aplomb, diciamo così, che testimoniava la delicatezza della faccenda, perché bastava dire qualche parola di troppo rispetto al veto iniziale che era stato posto rispetto alla lista di supporto, ma personalizzata, per così dire, per sottolineare l'importanza trasversale della sua sindacatura nella città. Il veto che era stato posto poi è stato superato. Ecco, se uno pensa a quello che è successo da quando non c'è più il governo Berlusconi all'interno del vertice della Lega, insomma, quello che è emerso chiaro è che c'erano due opinioni diverse, due stili diversi, non so come dire, non voglio entrare nel merito perché poi ciascuno pensa che sia sbagliato dall'esterno definire quale sia la contrapposizione o la distinzione, insomma, tra chi poi dice facciamo un passo avanti rispetto a quelli intorno a Bossi che in questi anni hanno menato le danze, pensiamo a Maroni, non solo a Maroni, e chi dice invece ragazzi è solo sempre Umberto e non si discute, e quindi se noi stiamo intorno a Umberto, se discutete noi, discutete voi. Ma in questo caso, quando ci sono soldi di mezzo, quando ci sono i figli di Umberto Bossi di mezzo e le persone a più diretto contatto, quando salta fuori la sede del SIMPA in Sardegna, che non si capisce se è la casa di Rosimauro personale e così via, e quando anche all'interno del vertice del movimento, o almeno quello che oggi c'è sui giornali e che su molti sui giornali alcuni di questi vengono attribuite battute del tipo tutti sapevano, che è esattamente la stessa battuta che ha fatto Lusi, il tesoriere della Margherita, quando ha tentato nelle prime settimane di coinvolgere tutti. E quindi voglio dire, paragono lo stile diverso della Lega, è uno stile che non è più diverso, perché la differenza in più è che la risposta che tutti sapevano da parte della cerchia più ristretta intorno a Umberto è come dire che appunto i familiari di Umberto sono coinvolti. Allora, rispetto a tutto questo io non le chiedo giudizi, sindaco, perché capisco, ma è fondato secondo lei credere che alla vostra base, agli elettori del nord, con un PDL già con tanti guai rispetto a come si vede nei sondaggi e il fatto che voi sembravate la tenuta nell'elettorato del centrodestra, che lei dica in realtà non siamo ancora vicini alla politica romana? Non c'è un allineamento così grave potenziale che prima del turno amministrativo, che prima delle politiche dell'anno prossimo, i dirigenti della Lega dovrebbero essere capaci veramente di ammettere di aver fatto gravi errori e ripartire, non dico da zero, ma con una svolta molto profonda? Umberto Bossi è capace secondo lei oggi di capirlo e di guidare anche questo, oppure no? Allora, Umberto Bossi è chiaro che ha delle persone a lui più vicine che lo consigliano, ed è chiaro anche che in alcune scelte è stato mal consigliato, al di là del caso del tesoriere, ma se pensiamo al fatto che si è voluti a tutti i costi dare che con Berlusconi, quando si capiva che era un governo che era destinato per colpa anche di Berlusconi, nel senso che lui non voleva assolutamente, ma che potesse essere nessun altro all'interno della maggioranza, anche all'interno dello stesso PDL, ad assumere il suo ruolo. E quindi Berlusconi su questo ha detto io ho i numeri, va tutto bene, i conti sono a posto, eccetera, finché alla fine finiti. E quindi lì forse la scelta di sganciarci prima che fosse lo stesso PDL ad affossare Berlusconi sarebbe stata quanto mai opportuna, perché il nostro elettorato e i cittadini in genere non hanno capito questo stare a tutti i costi insieme nella maggioranza, quando si continuavano a perdere pezzi, quando il dibattito parlamentare si era impantanato, quando la politica si era fermata, quando il fermo fiscale si era inchiodato, e quindi evidentemente c'è stata una serie di scelte dove Umberto Bossi è stato mal consigliato da chi gli stava intorno, e che adesso appunto si potevano cominciare a superare grazie al fatto che la Lega ha scelto, secondo me giustamente, di stare all'opposizione, perché come ha ricordato anche lei prima, ma è palese insomma fino adesso, e lo dico purtroppo con molto rammarico, perché quando è andato sul governo tecnico io ho detto forse Mario Monti, essendo un tecnico e avendo un consenso larghissimo in Parlamento, se ha il coraggio porta le riforme quelle vere, va avanti col federalismo fiscale, taglia la spesa pubblica, fa la riforma del lavoro, fa tutto quello che serve. Invece in realtà è diventata la mediazione a ribasso, con ognuno che gli pone il suo paletto, la sua condizione, e quindi si rischia che non si faccia più nulla. L'impressione è quella lì, tranne una marea di nuove tasse che adesso gli italiani cominciano a rendersi conto di che massacro sarà la nuova IMU, così come è stata impostata dalla cosiddetta manovra Salva Italia. Quindi c'è stato un momento in cui adesso la Lega poteva riscattarsi rispetto a quella situazione, però lo deve fare sia appunto facendo pulizia, come dice Manoni, rispetto a certe situazioni interne poco chiare, che non vuol dire che ci sia colpevolezza, vuol dire che non puoi prestare il fianco alle critiche. Cioè uno, proprio per come è la Lega, non deve poter pensare che tu ti comporti in maniera diversa, in maniera scorretta, che tu ti comporti come gli altri, come gli altri. Devi essere diverso anche nei comportamenti, anche quindi quando ci sono situazioni come queste. E poi anche la linea, appunto, deve essere una linea concreta. Maroni perché è apprezzato dentro e fuori dalla Lega ancora adesso? Perché come ministro degli interni è stato assolutamente, ha avuto un profilo istituzionale, senso dello Stato, non ha fatto demagogia, grande concretezza e vicinanza ai problemi. Ed è quello che a tutti i livelli, dal comune alla regione, a Roma, la gente ti chiede. Non slogan, non demagogia, ma attenzione e concretezza sui problemi. Sindaco, lei si deve occupare della sua città e continuare a occuparsi della sua città. Lasci che le dica che rispetto al fortissimo scontento che c'è nel tessuto delle partite IVA, degli autonomi, dei commercianti, degli artigiani, della piccola impresa del nord-est, ma in tutto il nord, in tutta l'area produttiva, e lei lo sa perché vive in un'area in cui tocca con mano questa cosa, il problema è che sul finanziamento dei partiti, di cui anche il suo partito mostra di avere una così elevata disinvoltura nella gestione, sul fatto che se si spezzano legislature i partiti prendono comunque, sul moltiplicare per 5 degli ammontari in questi anni, su quello come su vicenda, come non vedere mai la spesa corrente che scende, quello dico, quella centrale, perché poi l'Italia e l'autonomia invece le hanno fatte come. Allora, su questo la gente, secondo me, che esce da un ciclo di 17 anni in cui ha creduto molto spesso, e in tante di loro e nel nord a maggioranza, agli impegni, alle promesse dell'articolazione che c'è al centrodestra, stavolta alle tasche piene. Io sbaglierò, ma penso che se il vertice della Lega non capisce che la cautela interna rispetto al leader va superata brutalmente, energicamente, prima si poteva pensare che era solo il PDL che pagava il bagno di sangue e probabilmente anche l'andata in pezzi, ma da 2 giorni temo che il rischio riguardi anche voi. Quindi, signor Sindaco, noi continueremo, lo sa, da Radio 24 a chiamarla, la ringraziamo e se può faccia riflettere i suoi compagni di partito mentre si occupa di Verona. Ora andiamo in pubblicità e poi ci occupiamo delle latterie vicentine. È questa l'impresa che rischia di chiudere perché, tanto per cambiare, lo Stato non la paga. Alcuni ascoltatori, che ringrazio perché in questi giorni moltissimi mi sono vicini, io ricordo tutti che il messaggi per sms si mandano al 349-238-6666, il numero verde per le chiamate è 800-24-0024, poi il mio indirizzo è facilissimo, quindi ho giannino@yahoo.com. Ma detto questo, molti in questi giorni mi hanno fatto riflettere perché dicono, tu più o meno giustamente, dicono alcuni, individui solo lo Stato come il problema fondamentale perché c'è il 52% di PIL in mano, perché è organizzato in maniera da abbattere la produttività, è opaco, è poco trasparente e poi perché coinvolge decine di migliaia, centinaia di migliaia purtroppo, di imprese private e dei loro dipendenti nel fare a patti con finti prezzi, finte tariffe, gare per amici degli amici, e quindi poiché occupa in maniera così poco efficiente il più del PIL nazionale, l'effetto a cascata è che finisce anche per corrodere e corrompere la produttività del mondo privato. Però dimentichi, dicono parecchi di loro, che anche dal mondo privato vengono vicende assai poco edificanti. Devo dire la verità, ci ho molto riflettuto e devo su questo correggermi, perché effettivamente bisognerà che noi dedichiamo più spazio a questo, perché l'osservazione è giusta. È giusta se penso a vicende come quella, per esempio, del gruppo Fonsai Ligresti, della pessima figura dei regolatori che evidentemente erano accecati, sto parlando Consob e ISVAP, mentre si buttavano miliardi e mentre Mediobanca continuava a darglieli ai Ligresti. Scoprire a cose fatte ciò che tutti sapevamo e che accettavamo, questa è la verità, perché poi nessuno insorgeva su come i Ligresti estraevano denaro contro gli azionisti in minoranza per sé, per le cose proprie, mentre l'azienda perdeva miliardi anno dopo anno, questa è una pessima prova sia dei regolatori che del mondo privato. È una pessima prova che Mediobanca poi organizzi con Unipol, su cui è molto esposta, anche un'operazione a patto che non ci sia l'OPA poi per gli azionisti in minoranza in Fonsai, cioè l'enorme premio di controllo che viene comunque garantito ai Ligresti non viene spalmato ai privati. È grave che la Consob su questo dica che va bene. E pensate a RCS, alla vicenda di ieri che oggi confusamente leggete sui giornali, e in realtà la durezza di Diego Della Valle che ieri sbatte la porta ed esce dal consiglio di amministrazione, dal patto di sindacato, perdonatemi, dicendo che ha finalmente mani libere, e che dice di Elkann, del presidente della Fiat, che è un ragazzino, dice di Renato Pagliaro, che rappresentava Mediobanca nel patto di sindacato, che è un impiegato, e dice, in parole povere, che altro che il nuovo consiglio di RCS che viene dipinto come fuori gli azionisti e dentro gli indipendenti, separazione tra proprietà e manager, sono dei burattini nelle mani della Fiat e nelle mani di Mediobanca, che sempre più impasta con la vecchia logica, quella di un tempo, senza avere i grandi di un tempo come Enrico Cuccia. Accuse pesantissime, a dire la verità, e stiamo parlando di un gruppo editoriale che sta perdendo molto, molto, non tanto per il Corriere della Sera quanto per le disinvolte partecipazioni e per i valori con cui le aveva acquisite all'estero. Ci sono tantissime vicende nel mondo privato che comprovano che è un mondo che non funziona affatto, che anche quello è fatto di economie relazionali, che anche quello è fatto di poche persone che dalle banche ottengono tutto, mentre il 99% della piccola impresa italiana è nelle condizioni del povero Frassacco, che anche ieri si è aggiunto lui a Roma fucilandosi al petto e chiedendo scusa ai suoi figli, alla troppo lunga lista di coloro che si suicidano. Questo io ve l'ho detto settimane fa, che avevamo superato questo effetto emulativo. Non è che la disperazione economica del paese, nella piccola impresa, nei dipendenti che perdono il lavoro, nei pensionati che si vedono tagliate le tasse, sia improvvisamente, verticalmente aumentata in poche settimane. Quello che è successo è che è saltata la soglia, che era una soglia psicologica di tenuta del paese, per cui i disperati erano tanti, ma non pensavano fosse giusto e legittimo davvero uccidersi. Dopo uno è come le ciliegie, tutti gli altri, uno al giorno almeno, disperati in queste condizioni si uccidono. È per questo che continuiamo a dire, come Bortolussi della CGA di Mestre, che qualcuno ci pensi, che nelle associazioni di impresa, bancarie, l'ABI, l'ANIA, non lo Stato, i cui soldi non vogliamo, mettano pochissimi milioni per mettere in piedi un centralino, un servizio psicologico d'emergenza, la possibilità di rimbalzare prima che davvero le porte del credito si chiudano per sempre, perché qui le lettere che arrivano non se le inventa Oscar Giannino, magari un altro meglio di me presto farà finta di non riceverle, o dirà che è sempre stato così e che insomma il merito di credito è il merito di credito e poi è una questione di equilibrio psicologico non spararsi. Ma non è possibile non vedere la differenza tra oggi e anche il 2009, il momento peggiore della crisi prima che riprendesse il commercio mondiale. L'Italia è più in ginocchio, è più piegata, è una nuova sberla di tasse. Uscirà dalle poche tasche magre dell'Italia legale che le aveva pagate prima e continua a pagarle adesso. E tutto questo per dire che noi siamo più legali e ce la faremo, o che i peggi alle spalle, come hanno detto Monti in questi giorni. Io preferisco sbagliare e andarmene presto, ma se poi ho ragione e la gente si ammazza, non so che cosa servirà aver latrato in vano come faccio. Allora, vi presentiamo il caso delle Latterie Vicentine. Le Latterie Vicentine, centrale del latte, avanzano una somma tale da mettere in discussione la sua stessa esistenza, la sua protrazione in vita della sua continuità aziendale. È un'azienda serissima, totalmente in regola, ha una forma cooperativa. Le Latterie Vicentine hanno 500 soci, 130 dipendenti, tutti crediti IVA sono certificati. Sta considerando se, contro lo Stato che non la paga, a dire un'altra parte dello Stato, cioè i giudici, per tentare di avere il modo di escutere il suo credito. E abbiamo con noi il presidente Gianni Pinton, a quale chiedo, oltre che ringraziarlo per questa testimonianza, di raccontarci come e perché si sia arrivati a questo, se era la regola prima, se c'è solo un lieve peggioramento e siano i conti della vostra società che non tollerano più il lieve peggioramento rispetto al ritardo di prima. Insomma, che cosa è successo, quanti sono nelle vostre condizioni e come uscirne. Buongiorno e grazie presidente. Buongiorno. La sentiamo malissimo, si deve avvicinare al telefono. Forse è meglio che si fermi un secondo, le diamo il tempo di fermarsi perché evidentemente è alla guida. Eccoci qua, eccoci qua. Allora. Allora, stacco gli auricolari. La storia della Terra Vicentina è questa, diciamo, un po' la riassunta lei. Siamo 500 soci agricoltori in gran parte della provincia di Vicenza, ma anche dei comuni contermini di Padova e Verona, no. In tutti portiamo praticamente 3.300 quintali di latte al giorno. Alcuni soci sono di pianura, alcuni soci sono di montagna, soci che producono, soci che hanno grandi stalle e soci che hanno anche piccole stalle di montagna, per cui la nostra è una cooperativa che raccoglie il latte senza badare la convenienza di trasporti, per lo spirito mutualistico della cooperativa. Con il nostro latte produciamo essenzialmente Asiago, noi produciamo, siamo praticamente i più grossi produttori del consorzio dell'Asiago, ne produciamo da soli quasi il 40%, per cui gran parte dell'Asiago che si mangia in Italia è un formaggio fatto da noi. Oltre all'Asiago siamo abbastanza bravi, forti per produrre latte fresco e yogurt e anche un po' di grana padano. E oltre a questi i nostri prodotti sono altri prodotti di nicchia, abbiamo anche 15 soci che fanno il biologico, quindi abbiamo prodotti anche biologici, abbiamo prodotti di maiga, abbiamo un formaggio di grotta, ecco, questi sono un po' i nostri prodotti. Problema nostro, da quando è nata l'IVA, diciamo, il governo aveva deciso che per agevolare i consumatori i prodotti a più largo consumo come il latte, il pane e altri prodotti hanno l'IVA più bassa, si parla del 4%, quindi la massaia, il cittadino che va a comprare il latte o il formaggio, l'IVA che viene pagata dal consumatore è il 4%, mentre la cooperativa paga ai propri soci il latte al 10%, e oltre a questo tutti i mezzi tecnici che vengono acquistati dalla cooperativa, dalle latterie, dai nostri stabilimenti, mezzi tecnici, detersivi, caglio, macchine eccetera, è al 21%. Questo vuol dire che noi siamo in eterno, come si dice, paghiamo più IVA di quella che riceviamo e quindi abbiamo diritto a un rimborso. Questa storia è da subito, e da subito vorrei dire sempre lo Stato è stato sempre in ritardo. Vorrei dire che la media era che era sempre fuori di 2 o 3 trimestri, anche più. Per cui in una cooperativa come la nostra che facciamo 78 milioni di euro quest'anno, di media eravamo sempre fuori con 1,5 milioni, 2 milioni di euro, no, in ritardo, ma in grave ritardo. Se non che da 2 anni qua, dal 2010 fino adesso, praticamente lo Stato si è fermato, non ci ha pagato più niente, o meglio dello Stato, Equitalia è il suo braccio armato, diciamo, no? E questo ha continuamente ingigantito questo rimborso IVA. E adesso siamo arrivati, adesso il 30 di marzo, a 10 milioni di euro in pratica, capisce? 10 milioni di euro, le capisce benissimo, su 78 milioni di fatturato, vuol dire che abbiamo un problema di liquidità, no, enorme, ancora di più. Per la verità, proprio in questi giorni, a forza di protestare, credo non siano state proteste, è arrivato una piccola tranche ancora dei primi mesi del 2010. Però si parla del 5%, del 5% di quello che dovevamo prendere. Immaginatevi come reagirebbero l'Equitalia se noi pagassimo il 5% quando dobbiamo dare invece l'anticipo al conguaglio, come reagirebbero loro? Cosa abbiamo fatto? Per fortuna, come ha detto lei, ci sentiamo una cooperativa molto compatta, forte, ben piantata anche a livello finanziario in tutti i sensi, per cui fino a 6 mesi fa diciamo che abbiamo tamponato con l'appoggio delle banche, le quali ci davano moltissima fiducia, avevamo un rating altissimo, nel Veneto forse eravamo fra le aziende, anche non cooperative, ma anche fra quelle industriali, avevamo i rating migliori di tutti o quasi, ma senz'altro eravamo al massimo, per cui portavamo a casa i soldi in prestito a un tasso bassissimo, diciamo, perché ce lo meritavamo. Adesso però tutto è cambiato, e per cui non solo le banche ci hanno quasi decuplicato il tasso, ma addirittura adesso le banche sono in crisi, non hanno più soldi neanche le banche. Infatti. Per cui da questa forza enorme che avevamo, adesso ci sentiamo debolissimi e stiamo guardando, come si dice, il futuro, come quando si guarda nei nostri campi il terreno delle siccità, che se non piove entro tot tempo si perde il raccolto. Si sa cosa succede. Allora la fermo un secondo, ma torniamo subito, un minuto con le informazioni stradali. Scusatemi. Grazie. In questo momento così speciale vorrei dire due parole. Vi saluto. Ci sono occasioni che non si possono perdere. Venite a scoprire il nostro usato d'eccellenza in tutte le concessionarie BMW Premium Selection. Strade in diretta. A Milano, sul raccordo che collega l'autostrada del Sole a Piazzale Corvetto, ci sono delle code a causa di un incidente con quattro veicoli coinvolti in direzione della città. Ripercussioni sull'Autosole con code a partire dallo svincolo di Melegnano. Sulla 12 Genova-Livorno ci sono code di 6 km per un incidente con mezzi pesanti coinvolti, ora in via di risoluzione tra Genova Est e Recco sulla carreggiata in direzione Livorno. Sempre alle porte di Genova si rallenta per lavori dopo un incidente sulla 10 tra il bivio per la 26 dei trafori a Renzano in direzione Savona. Lungo la 22 del Brennero un cantiere, oltre al traffico intenso proveniente dall'estero, causa code tra Chiusa e Bolzano Nord in direzione Modena. Code per lavori anche sulla Firenze-Pisa Livorno in uscita da Firenze fino allo svincolo di Lastra Assigna. E il traffico è ancora intenso attorno alle principali città anche a causa delle partenze per le vacanze pasquali e per il maltempo che rallenta la circolazione quest'oggi su gran parte delle regioni. Per il momento è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora. 9 in punto, la versione di Oscar. E mentre ripartono i Doors per The End, vi chiedo, dove sono i colleghi molto più autorevoli di me, editorialisti di Repubblica, del Corriere, della Stampa? Dove sono coloro che hanno per mesi e settimane intinto la penna nell'inchiostro per la giusta causa per la quale la Chiesa doveva pagare più ICI, perché basta con questa storia dei conventi che con la scusa della cappella mascheravano alberghi? Dove sono? In poche ore in cui è passata l'esenzione dell'IMU alle fondazioni bancarie, che non hanno cappelle perché controllano le banche, beh, nessuno dice niente? A protestare siamo Mario Giordano, gli amici del giornale, io e pochi altri fessi che evidentemente non abbiamo, o meglio, abbiamo preso tanti schiaffi in passato dal mondo delle fondazioni bancarie e dei giornali che loro controllano, che evidentemente ci sentiamo più liberi. No, ma il problema non è questo, non è sentirsi liberi o meno. Io non credo affatto che i colleghi di Corriere, di Repubblica, della Stampa, del Messaggero siano schiavi di questo. Non credo affatto che ci sia chi li chiama e li obbliga a non parlare, a non occuparsene. Ma vi rendete conto che un paese nel quale passa sotto silenzio che le fondazioni bancarie sono esentate dall'IMU controllando le banche, mentre invece la stangata arriva a noi e giustamente la Chiesa pure deve pagare di più, è un paese in cui, come vedete, pubblico e privato vanno a braccetto nel coprire ciascuno le poco emendabili caratteristiche dell'altro? Ecco, faccio l'esempio che conclude l'osservazione a chi diceva che non mi occupavo del privato. E come se me ne occupo del privato? È proprio questo il rischio tra poco, se voglio continuare a stare qua. Detto questo, torniamo col presidente delle Latterie Vicentine. Di fronte alla stretta del credito bancario, di fronte al fatto che lo Stato non pagava, siamo a 10 milioni con piccole tranche del 5%, la prospettiva per chi vuole rimanere nella legalità e contemporaneamente non vuole chiudere bottega e far pagare alle socie e alle loro famiglie la condizione, qual è? Che potete fare? So che avete incontrato il ministro dell'agricoltura, che lui sì si è reso interprete verso Grilli, però Grilli dice: io soldi non ce n'ho. Che si può fare in queste condizioni? Ma diciamo che senza l'intervento dello Stato che ci dia quello dovuto, credo che non immagino neanche cosa può succedere, perché la roba sarebbe esageratamente grave. Finora possiamo dare ancora una nota di tranquillità ai nostri soci, che finora abbiamo tenuto, soprattutto per la nostra forza e la nostra compattezza. Le cito un'altra cosa per dirle: noi abbiamo usufruito della legge ancora di parecchi anni fa della possibilità di autofinanziare la propria cooperativa, per cui i nostri soci, quando alcuni dei nostri soci sono meno in difficoltà, se hanno qualche centesimo lo depositano in cooperativa. per cui ci siamo già dotati da anni con un sistema di autofinanziamento, che adesso addirittura i dipendenti, 130 dipendenti, hanno chiesto che cambiamo le regole dello statuto, basta cambiare una parolina, perché anche i dipendenti possono diventare finanziatori della cooperativa. Questo è un gesto importante, anche però se è un gesto, vorrei dire, non dico insignificante, ma di poco valore per poter risolvere tale problema, ecco, tutto qua. Guardi, Presidente, porti ai vostri soci il nostro sostegno, la nostra solidarietà, e attraverso la sua voce abbiamo fatto parlare anche oggi tutti coloro che sono vittime di uno Stato che prende per sé a rapidità fulmicotonica, dice che è la colpa degli italiani che non ne pagano abbastanza, ma lui in realtà non paga. Non ci sapranno neanche dire come sono pagati i vertici amministrativi e come non se lo hanno saputo dire per i parlamentari rispetto a tutta Europa, perché lì non si taglia solo nelle tasche degli italiani. Poi ci dicono che fanno grandi riforme, che invece più rigidità in ingresso al mondo del lavoro, e quanto a tutto il potere al giudice rispetto allo scioglimento dei rapporti è tutto non come prima, ma il rischio che sia peggio di prima, perché i licenziamenti economici prima collettivi in realtà si facevano per consenso senza passare dal giudice, questa volta si passerà dal giudice. Ecco, io che ho detto e continuo a dire ci voleva un governo all'altezza della situazione, continuo a pensarlo, ma la condizione di un'Italia che sprofonda mentre si vorrebbe, come ai tempi di Berlusconi, in tutto e per tutto dire che tutto va bene madama la marchese, mi sembra una stupidaggine, ma se sono stupido io vi leverò presto la soddisfazione di non salutarvi più tutte le mattine. Intanto a domani.